La Coupe, seconda parte, l'altra coppa di George Sand. Tuttavia, quando Zilla rientrò nella valle, le parve che tutto fosse cambiato. L'aria le sembrava meno pura, i fiori meno belli, le nuvole meno luminose. Si meravigliò di non trovare l'oblio e fece molti incantesimi per evocarlo. L'oblio non venne. E la fata si scoprì immersa in riflessioni che non aveva mai fatto. Nascose alle sorelle e alla regina il cruccio che aveva, ma ebbe un bel cantare alle stelle e danzare sulla rugiada. Non ritrovava la gioia di vivere. Passarono mesi e settimane, ma la sua depressione non si attenuava. All'inizio aveva creduto che Ermanno sarebbe ritornato, ma non tornò ed essa incominciò a essere inquieta. La regina le disse: "Che cosa ti importa di ciò che può essergli accaduto? Può essere morto e tu devi desiderare che lo sia. La morte cancella il ricordo." Zilla avvertì la parola morto con una sofferenza acuta. Se ne stupì e chiese alla regina: "Perché non sappiamo dove vanno le anime dopo la morte?" "Zilla," rispose la regina, "non pensare a questo. Noi non lo sapremo mai. Gli esseri umani non ce lo faranno mai sapere. Loro stessi non lo sanno che quando hanno lasciato la vita, e noi, che non la lasciamo mai, non possiamo né indovinare dove vanno né sperare mai di raggiungerli." "Questo mondo," riprese Zilla, "deve dunque durare per sempre, e noi siamo condannati a non vedere e non possedere mai altra cosa?" "Questa è la legge che noi abbiamo accettato, sorella mia. Dureremo finché durerà la terra. E se questa deve perire, anche noi periremo con lei." "Oh, regina, gli esseri umani dunque sopravviveranno al mondo? Le loro anime non periranno mai. Allora sono loro i veri immortali, e noi siamo invece esseri effimeri nell'abisso dell'eternità." "Tu l'hai detto, Zilla. Lo sapevamo quando abbiamo bevuto la coppa. Te ne sei dunque dimenticata?" "Oh, io ero giovane allora, e la gloria di vincere la morte mi ha ubriacata. Poi ho fatto come le altre, e la parola avvenire non ha più avuto per me alcun senso. Il presente mi è sembrato essere l'eternità." "E da dove ti viene dunque oggi," disse la regina, "l'inquietudine che mi confidi e la curiosità che ti turba?" "Non lo so," rispose Zilla. "Se potessi conoscere il dolore, ti direi che è dentro di me." Zilla aveva appena finito di pronunciare queste parole che le lacrime inumidirono i suoi occhi puri. E la regina la guardò con profonda sorpresa. Poi le disse: "Avevo previsto che ti saresti pentita per aver abbandonato il ragazzo, ma la tua pena supera le mie aspettative. Deve essere capitata qualche disgrazia a Ermanno, e questa disgrazia ricade su di te." "Oh, regina," disse la giovane fata, "io voglio sapere che cosa è accaduto a Ermanno." Fecero allora un incantesimo. Zilla, inebriata dai profumi del braciere magico, reclinò sulla spalla il bel capo come un giglio che va appassendo, e la visione prese forma davanti a lei. Vide Ermanno in fondo a una prigione. Era stato subito spogliato da uomini bugiardi e traditori del denaro che possedeva. Avendo fame, aveva rubato qualche frutto e compariva davanti a un giudice che non riusciva a fargli capire che quando non si ha da mangiare bisogna lavorare o morire. A questa visione ne subentrò un'altra. Ermanno, non avendo compreso la giustizia umana, compariva di nuovo davanti al giudice che lo condannava a essere frustato e a uscire dal palazzo ducale. Il giovane, indignato, dichiarava allora di essere il figlio del defunto duca, il fratello maggiore del principe regnante, l'erede legittimo della corona assegnata a suo fratello. Zilla lo credette salvo. Gli sarà resa giustizia, pensava. Diventerà principe e poiché noi lo abbiamo fatto diventare giusto e sapiente, il suo popolo lo amerà e lo rispetterà. Ma un'altra visione le mostrò Ermanno, accusato di essere un impostore e di covare progetti sediziosi, che veniva condannato a morte. Allora la fata ritornò in sé, sentendo echeggiare a lungo questa frase: "È per domani." Per quanto fosse una buona maga, non aveva il dono di trasportare il suo corpo così in fretta come il suo spirito. Se le fate possono coprire grandi distanze, È perché non conoscono la fatica, ma per tutte le cose occorre del tempo e Zilla capì per la prima volta il valore del tempo. Dammi le ali, disse alla regina. Ma la regina non le aveva inventate. Fammi portare da una nube veloce. Ma né gli uomini né le fate avevano fatto questa scoperta. Fammi portare dal vento attraverso lo spazio. Tu mi domandi l'impossibile, disse la regina. Parti in fretta e non contare che su te stessa. Zilla partì e si tuffò nel torrente portata dall'acqua alla velocità del fulmine, ma arrivata in pianura si trovò bloccata in un'acqua stagnante e preferì correre. Era leggera come può esserlo una fata, ma non aveva mai avuto bisogno di affrettarsi e non agendo su di lei quell'energia particolare che in alcune circostanze dà agli uomini una forza febbrile, vide che i passanti che si dirigevano in città per vedere impiccare l'impostore Ermanno andavano più in fretta di lei. Umiliata nel vedersi precedere da umili contadini, vide un cavaliere su una bella cavalcatura e saltò in groppa dietro di lui. Egli la trovò bella e le sorrise, ma subito non la vide più e credette di aver sognato. La sentiva invece il cavallo, perché la lo incitava a correre e l'animale, terrorizzato, si impennò così violentemente che fece cadere il suo cavaliere. Zilla allora affondò il tallone bruciante nella groppa e l'animale si diede a una corsa disperata, alla fine della quale, essendo andato al di là delle sue forze, cadde morto alle porte della città. Zilla prese il mantello del cavaliere che era rimasto attaccato alla sella e si mischiò alla folla che si riversava verso il palco dell'esecuzione. Il popolo era furioso e urlava imprecazioni perché aveva appena appreso la notizia che l'impostore Ermanno era riuscito a evadere. E voleva che al suo posto venissero impiccati la guardia carceraria, il capo della prigione e lo stesso boia, che non avrebbe più offerto l'atteso spettacolo. Il capo supremo della polizia si affacciò a un balcone e cercò di placare la folla, dicendo: «Non siamo ancora riusciti a riacciuffare l'impostore Ermanno, ma vi daremo lo stesso lo spettacolo per cui siete venuti». E degli araldi gridarono ai quattro angoli della piazza: «Vedrete pendere dalla corda, senza processo, lo scellerato che ha fatto fuggire il condannato». La folla applaudì e il boia preparò la corda. Si fece venire la vittima e la fata vide una cosa straordinaria. Chi aveva salvato Ermanno non era altri che Bonus, il precettore, che veniva avanti rassegnato, rimettendo a Dio la sua anima. «È fatta», disse alla fata che gli si accostò. «Una volta ho sorvegliato male il principe e mi hanno condannato al rogo. Oggi lo salvo ed ecco la corda. Si vede che devo compiere il mio destino». Bonus, dopo la partenza del suo discepolo, ne aveva sentito la mancanza nel regno delle fate, si era vergognato della sua codardia, si era anche detto che il principe Ermanno, essendo il legittimo erede della corona, lo avrebbe salvato dal rogo. Approfittando del fatto che le fate lo avevano abbandonato nel suo isolamento, era già partito da 8 giorni ed era riuscito a penetrare in città senza essere riconosciuto sotto i suoi abiti femminili. Là, venendo a sapere che il principe era in prigione, era andato a trovare il principe regnante. Gli aveva giurato che Ermanno era suo fratello e il principe regnante gli aveva consentito di tentare di farlo evadere, a patto che entrambi tornassero dalle fate e non turbassero più la pace delle sue terre. Bonus aveva salvato Ermanno dandogli il suo abito e il suo cappuccio. Era rimasto in prigione al posto suo, contando sul fatto che sarebbe stato lasciato libero col mostrare il salvacondotto del principe regnante, ma nella fretta di cambiarsi aveva lasciato il salvacondotto nella tasca del suo abito femminile. E senza saperlo, Ermanno se ne andava in giro con questo documento in tasca, mentre Bonus stava per essere impiccato. Zilla decise di salvare il vecchio e, facendo schioccare le dita, folgorò il boia, che cadde come ubriaco e non ci fu verso di svegliarlo, nonostante le grida della folla. 2 guardie che avrebbero voluto bloccare la fata e il condannato furono a loro volta immobilizzate e tutti quelli che si presentarono per rimpiazzarle non riuscirono a vincere l'incantesimo che la fata aveva loro gettato addosso. Zilla condusse il vecchio in una foresta, dove lui le riferì in un momento di riposo il cammino che Ermanno avrebbe dovuto fare, senza rischio, grazie al salvacondotto. Andiamo a cercarlo, disse Zilla, e si rimisero subito in cammino di buona lena. Dopo molti giorni lo raggiunsero nelle terre di un principe vicino e lo trovarono che lavorava a tagliare e a ridurre in pezzi degli alberi per guadagnarsi la vita. Vedendo sopraggiungere i suoi amici, gettò la scure e volle seguirli. Ma una fanciulla che si avvicinava in questo momento lo fece fermare con uno sguardo più potente di quello di tutte le fate. Era in verità una povera ragazza che camminava a piedi nudi, la serva del boscaiolo che aveva assunto il principe perché lo aiutasse nei suoi lavori. Tutti i giorni lei portava sul capo il pane e l'acqua che Ermanno mangiava e beveva a mezzogiorno. Nello stesso modo faceva questo servizio a tutti gli altri uomini al lavoro che erano sparsi nella foresta e non si fermava mai a chiacchierare con loro. Aveva dunque scambiato appena qualche parola con Ermanno, ma a parlarsi erano stati i loro occhi. Era bella e modesta. Ermanno aveva 20 anni e non aveva ancora conosciuto l'amore. Dopo 3 giorni amava la povera Berta e quando la fata gli disse partiamo, le rispose no, a meno che tu non mi consenta di portare con me questa compagna. Sarai sempre un pazzo, rispose Zilla. Hai appena passato una stagione tra gli esseri umani che hanno voluto la tua morte e tu pretendi di amare in mezzo a loro? Io non pretendo nulla, disse Ermanno. Ieri ero pronto a morire sul patibolo e maledicevo la mia razza. Oggi amo questa ragazza e sento che l'umanità è la mia famiglia. Non vedi, ribatté la fata, che vivrai qui come servo, lavorando in miseria? Accetto tutti i mali in cambio della felicità di essere amato. Zilla prese da parte la fanciulla e le chiese se voleva essere la compagna di Ermanno. Ella arrossì e non rispose. Considera, le disse la fata, che il suo regno è la solitudine. Berta domandò se Ermanno fosse un uomo in esilio. Per sempre, le rispose la fata. Ma non siete voi la sua fidanzata? La fata sorrise, con palese aria di superiorità. Perdonatemi, disse Berta, voglio sapere se non ama che me. La fata si rese conto che la sua bellezza rendeva Berta gelosa. E il suo orgoglio ne fu lusingato. Ma la ragazza piangeva ed Ermanno, accorrendo, disse alla fata: Perché fai piangere la donna che io amo? Se non vuoi che mi segua, come puoi sperare che io ti seguirò? Ah, venite allora entrambi, disse la fata. Ma se tu ti annoierai un'altra volta nel nostro regno, con questa compagna, non contare più sul fatto che io mi interesserò ancora della tua sorte. Partirono tutti e quattro, perché Bonus ne aveva più che mai abbastanza dei rapporti con gli esseri umani, e ritornarono nella Valle delle Fate, dove l'unione di Ermanno e di Berta fu consacrata dalla regina. Poi i giovani sposi andarono a vivere con Bonus in una bella casa di legno che Ermanno costruì per la sua compagna. Allora le fate videro che cosa potente fosse l'amore per due giovani cuori ugualmente puri. E che felicità fosse dato di gustare a questi due ragazzi nella loro solitudine. Bonus aveva ripreso con premura i suoi abiti femminili e con orgoglio la sua funzione di governante. Berta, semplice e umile, lo rispettava e ammirava sinceramente la sua abilità nel preparare i dolci. Ermanno, dopo che il suo precettore aveva rischiato la vita per lui, gli perdonava la sua golosità e gli testimoniava amicizia. Egli lavorava con ardore a coltivare la terra e a preparare condizioni più favorevoli di esistenza alla sua famiglia, perché ebbe ben presto un figlio, poi due, poi una bimba, e ad ognuno di questi doni della dea egli aumentava il suo impegno nel lavoro e abbelliva la sua proprietà. Berta era così dolce che si era conquistata la simpatia di Zilla e di tutte le fate giovani. Anche Zilla ormai amava Berta più di Ermanno e i loro figli più di tutti e due. Zilla non riconosceva più se stessa dopo la comparsa di questi bambini. L'esigenza di essere amata si era fatta in lei così forte che l'equilibrio del suo spirito ne era turbato. Un giorno disse a Berta: Dammi la tua bambina, voglio un'anima che sia tutta per me. Ermanno non mi ha mai amata, nonostante tutto quello che ho fatto per lui. Oh, vi sbagliate, signora, rispose Berta. Egli avrebbe voluto amarvi come sua madre, ma siete voi che non lo amavate come vostro figlio. Non potevo amarlo così, ribatté la fata. Sentivo che in lui c'era una qualche misteriosa resistenza, o che aspirava a una tenerezza che non potevo dargli. Ma tua figlia non ti conosce ancora, lei non rifiuterà nessuno, io la porterò nei nostri santuari, non vedrà mai altri che me, e io avrò il suo cuore e il suo spirito tutto per me. E voi l'amerete come l'amo io? Disse Berta, perché voi parlate sempre di essere amata senza mai promettere niente in cambio. Che importanza ha che io l'ami? Disse la fata, se saprò renderla felice. Giurate di amarla appassionatamente, gridò Berta messa in sospetto, o io giuro che non l'avrete mai. La fata, irritata, andò a lamentarsi dalla regina. Queste creature sono insensate, le disse. Non capiscono che cosa noi siamo per loro. Ci devono tutto. La sicurezza, l'abbondanza, l'offerta di tutti i doni della scienza e dello spirito. Ebbene, non ce ne sono affatto grati. Forse ci temono. Ma non vogliono amarci senza condizioni. Zilla, disse la regina, questi esseri hanno ragione. La cosa più bella e più preziosa che possiedono è il dono di amare e sentono bene che noi non l'abbiamo. Noi che li disprezziamo, noi siamo tormentate dal bisogno di ispirare affetto e lo spettacolo della loro felicità caduca distrugge la quiete della nostra immortalità. Di che cosa ci dovremmo lagnare? Noi abbiamo voluto sfuggire alle leggi ferree della morte. Noi sfuggiamo alle dolci leggi della vita. E noi proviamo un rimpianto profondo che non siamo capaci di definire. Oh, mia regina, disse Zilla, ecco che tu parli come se anche tu stessa sentissi questo rimpianto che mi consuma. L'ho provato per molto tempo, rispose la regina. Mi ha divorato, ma ne sono guarita. Dimmi il tuo segreto, gridò la giovane fata. Non posso, Zilla, è terribile e raggeleresti dallo spavento. Sopporta il tuo male e cerca di distrarti. Studia il corso degli astri e le meraviglie del misterioso universo. Dimentica l'umanità e non sperare di stabilire dei legami con essa. Zilla, molto turbata, si ritirò. Ma la fata vide ben presto arrivare altre giovani fate che si lamentavano allo stesso modo e le chiedevano il permesso di andare a rubare dei bambini agli esseri umani. Ermanno e Berta sono troppo felici, dicevano. Possiedono questi piccoli esseri che non vogliono amare che loro e che a noi non riservano, tremanti o distratti, che qualche sorriso o qualche carezza. Ermanno e Berta non ci invidiano niente, mentre noi invidiamo la loro felicità. È un'onta per noi, disse Regis, che era la più decisa nel suo risentimento. Noi abbiamo accolto questi esseri deboli e mortali per avere il piacere di confrontare la nostra felicità con la loro miseria, per ridere della loro debolezza e dei loro difetti. Per prenderli in giro, in una parola, pur facendo loro del bene, per goderci il privilegio e la soddisfazione del potere. Ed ecco che ci sfidano e si credono superiori a noi perché hanno dei figli che li amano. Fai in modo che li amiamo anche noi, oh regina, tu che ci hai fatte quelle che siamo. Se tu sei più saggia e più sapiente di noi, provacelo oggi, modificando la nostra natura incompleta. Privaci di qualcuno dei privilegi di cui hai dotato la nostra meravigliosa intelligenza e mettici nel cuore i tesori di tenerezza che gli esseri destinati a morire possiedono con tanta fierezza sotto i nostri occhi. E vennero anche le vecchie fate a dire che avrebbero lasciato quel regno se non si fosse cacciata la famiglia di Ermanno, perché vedevano bene che la sua discendenza avrebbe invaso la valle e la montagna, coltivato la terra, spaccato le rocce, incanalato le acque, disturbato, distrutto o sottomesso gli animali selvatici, turbato il silenzio, corrotto il mistero della solitudine e rese impossibili le cerimonie, le meditazioni e gli studi delle sapienti e venerabili fate. Se vi fa piacere di fare un'alleanza con la razza impura, disse la vecchia troglia alle fate giovani, Noi non possiamo opporci, ma abbiamo il diritto di separarci da voi e di andare a cercare qualche altro santuario veramente inaccessibile, dove potremo dimenticare l'esistenza degli uomini e vivere per noi sole, come conviene a degli esseri superiori. Quanto alla vostra regina, aggiunse guardandola in faccia con occhi minacciosi, tenetevela se la volete. Noi ci sottraiamo alle sue leggi e le dichiariamo guerra. Le fate giovani difesero con ardore l'autorità della regina. Quelle che non erano né vecchie né giovani si divisero in due partiti e la riunione diventò così tempestosa che i daini, spaventati, fuggirono attraverso la valle. E Berta disse a Ermanno: Le senti? Lassù in alto queste povere fate. Borbottano come il tuono e rumoreggiano come la burrasca. Hanno sì tutti i poteri che vogliono, ma non sanno essere felici come noi. Se continuano a litigare così, faranno crollare la montagna. Ermanno si preoccupò per Zilla, che amava più di quanto lei non volesse riconoscere. Io non so il male che le si può fare, disse. Io non sono iniziato ai loro segreti, ma vorrei proprio saperla al sicuro da questa tempesta. Valla a cercare, disse Berta. Ah, se potesse capire che noi l'amiamo. Ma la sua disgrazia è di parlare del cuore degli altri come una talpa parlerebbe alle stelle. Cerca di tranquillizzarla. Dille che se vuole vivere con noi, io le presterò i miei bambini per distrarla. Non si fanno prestiti alle fate, pensava Ermanno, esse vogliono tutto e non restituiscono niente. Salì in cima alla montagna e udì le grida delle fate radunate là, perché queste anime votate al culto obbligato della forza e della saggezza avevano perso la testa e domandavano tutte insieme un cambiamento, sulla natura del quale nessuna però era d'accordo. La regina, muta e immobile, lasciava che si agitassero attorno a lei come foglie sollevate da un turmine di vento. Parlavano nella lingua dei misteri. Ermanno non riuscì a capire che cosa dicessero. Nell'ebbrezza della loro ardente inquietudine fornivano lo spettacolo di una massa ondeggiante sulla brughiera agli ultimi raggi del sole. Alcune lanciandosi con incredibili balzi sulle rocce più alte per dominare il tumulto e farsi ascoltare, altre ammassandosi alle pendici delle rocce per consultarsi o eccitarsi vicendevolmente. Lo si sarebbe detto uno di quegli strani assembramenti che le rondini fanno talvolta sui tetti degli edifici, prima di partire tutte insieme per una meta sconosciuta. Ermanno cercò Zilla in questa folla e vide che non c'era. Si addentrò nelle scure pieghe della montagna e raggiunse una grotta di porfido dove sapeva che lei andava spesso. Non era nemmeno là. Procedete oltre, nei luoghi sperduti dove fiorisce la genziana blu come il cielo, e trovò Zilla, distesa al sole, sul ciglio di un abisso dove precipitava una cascata. La bella fata, abbandonata sul picco instabile, sembrava sul punto di seguire la caduta implacabile dell'acqua nel gorgo. Seguendo un impulso istintivo di paura, Ermanno la prese tra le braccia e l'allontanò da questo luogo orribile. Che cosa fai? Gli disse lei con un sorriso triste. Dimentichi forse che se anche io cercassi la morte, essa non vorrebbe saperne di me. Come puoi dartene pensiero allora, se non puoi amarmi? Madre, le disse Ermanno. Ella lo interruppe. Non sono mai stata, né sarò mai la madre di nessuno. Se ti offendo a chiamarti così, disse Ermanno, è perché tu non capisci questa parola. Eppure, quando da bambino piangevo colei che mi ha messo al mondo e che non dovevo più rivedere, tu mi hai detto che l'avresti sostituita e hai fatto ciò che potevi per mantenere la parola. Io ho spesso messo alla prova la tua pazienza con la mia ingratitudine o la mia leggerezza, ma tu mi hai perdonato sempre e dopo avermi cacciato sei corsa a riprendermi. Non so che cosa ci separa. Questo mistero è al di sopra della mia intelligenza, ma c'è una cosa che io so. Questa cosa che tu non capisci, è che se la mia felicità può fare a meno della tua presenza, non può però fare a meno della certezza della tua felicità. Tu mi hai detto spesso che la tua felicità era inalterabile, ma io l'ho creduto. Allora, non potendoti dare conforto e consolazione, ho vissuto per la mia famiglia e per me, Ma se tu sei capace di soffrire, di patire qualche ingiustizia, di provare il male nella solitudine, di concepire un sogno irrealizzabile, ecco, io sono qui per soffrire e piangere con te. Io so che non posso fare nient'altro. Io non sono abbastanza sapiente per scacciare il tuo cruccio, né abbastanza potente per difenderti dall'ingiustizia. E se il tuo desiderio immenso vuole sottomettere e possedere l'universo, io, ecco, non posso, io atomo, offrirtelo. Ma se tu vuoi il cuore di un figlio, ecco che io ti offro il mio cuore. Se non è in grado di valutare la grandezza del tuo destino, esso adora almeno la bontà che è in te, come la luce palpita nelle stelle. Io ho ben visto che tu ignoravi la tenerezza, ma ho visto anche che ignoravi ciò che deturpa gli uomini, la tirannia, il castigo. E se qualche volta ho sofferto di vederti così grande, ho più spesso conosciuto la dolcezza di sentirti così generosa e infaticabile nella tua protezione. E sempre, a dispetto dei miei abbandoni e delle mie rivolte, mi sono rimproverato di non poterti amare come meriti. Ecco tutto quello che posso dirti, Zilla. E per te non è nulla. Se tu fossi mia simile, ti direi: vuoi la mia vita? Ma la vita di un uomo è poca cosa per colei che ha visto cadere generazioni dopo generazioni nell'abisso del tempo. Ebbene, poiché non ho niente da offrirti che per te valga la pena di essere accolto, ecco la voce amara della mia impotenza e possa questo dolore riscattare la mia nullità. Ricordati di quel cane che io amavo nella mia infanzia. Non poteva parlarmi, non capiva la mia tristezza, e quando io come un pazzo gli parlavo per averne qualche conforto, mi guardava con occhi che sembravano dirmi: perdonami di non sapere di che cosa tu mi parli. Avrebbe voluto, ne sono certo, avere un'anima simile alla mia per condividere la mia pena, ma non aveva che gli occhi per parlarmi, e qualche volta mi è parso di vedervi delle lacrime. Io ho delle lacrime per te, Zilla. Sono una prova di debolezza che non bisogna disprezzare, perché sono l'oscura espressione e lo sforzo supremo di un'anima che non può varcare il limite dell'intelligenza umana e che ti offre tutto ciò che le è possibile offrirti. Tu menti, rispose Zilla. Ho chiesto uno dei tuoi bambini e tua moglie me l'ha rifiutato, e tu non me lo porti. Ermanno sentì il suo cuore diventare di ghiaccio, ma si controllò. Non è possibile, disse, che un così modesto desiderio turbi la pace immutabile della tua anima. Ah, ecco che fai già marcia indietro, gridò la fata. Tu pretendevi di volermi dare la tua vita, io ti chiedo molto meno. Tu mi chiedi molto di più, rispose Ermanno. Di dunque, gridò la fata, che tu temi le lacrime e i rimproveri di Berta. Non sai che tua figlia sarà felice con me? Che se si ammala saprò guarirla? Che se è ribelle la sottometterò con la dolcezza? Che se è intelligente ne farò un genio? Che se non lo è le darò gioie e sogni di una poesia tanto dolce quanto sono belle le rivelazioni della scienza? Confessa dunque che il tuo amore per lei è egoista e che tu vuoi crescerla nell'egoismo degli esseri umani. Non dirmi tutto ciò, rispose Ermanno. Io lo so. So che nel cuore dell'uomo e della donna l'amore è egoista nello stesso momento in cui è generoso, ma è proprio l'amore che tu non darai alla mia bambina. Ebbene, non importa. Io so che tu non puoi sopportare di veder soffrire e che se la vedrai infelice la riporterai da me. Tu mi parli delle lacrime di sua madre. Sì. Io le sento già cadere sul mio cuore, ma dimmi che il tuo soffre di questo desiderio materno inappagato che ti rende così tenace, e io cedo. Non vedi, disse la fata, che sono arrivata al punto di maledire l'eternità della mia vita, che l'insoddisfazione mi distrugge, che non mi riconosco più? Non tocca a te guarire questo male, visto che tu l'hai fatto nascere. Sì. È continuando a cercare di amarti nella tua infanzia che io sono giunta ad amare la tua bambina. Tu l'ami allora? Gridò Ermanno. Oh madre, è la prima volta che pronunci questa parola. È la dea che la mette sulle tue labbra. Io non ho il diritto di impedirle di arrivare fino al tuo cuore. Aspettami qui. disse subito, vado a cercare la bimba. E senza volerne esitare né riflettere, perché si rendeva conto che prometteva tutto ciò che un uomo può promettere, scese di corsa verso la sua casa. Berta dormiva con la bambina tra le braccia, Ermanno le staccò dolcemente la piccola, la avvolse in un panno morbido e uscì senza far rumore, ma aveva appena oltrepassato la soglia che la madre balzò furiosa dal letto, credendo che la fata le stesse portando via sua figlia. Quando seppe ciò che Ermanno aveva intenzione di fare, esplose in pianti e rimproveri, ma Ermanno le disse: «La nostra grande amica vuole amare la bambina, e la nostra bambina, che ci conosce appena, non soffrirà con lei. Non avrai rimpianti e ricordi che in passato hanno tormentato me in questo luogo. Bisogna fare un sacrificio alla gratitudine, mia cara Berta. Noi dobbiamo tutto alla fata. Ella mi ha salvato la vita, ella ti ha donato a me. Se noi dovessimo morire, si prenderebbe cura dei nostri orfani. Ella è per noi la provvidenza visibile. Sacrifichiamoci in riconoscenza della sua bontà». Berta non osò opporsi. Disse a Ermanno: «Porta via il mio tesoro, nascondilo, vattene! Se gli dessi un solo bacio non potrei più separarmene». Quando Ermanno ebbe fatto solo 3 passi, lei gli corse appresso, coprì la bimba di carezze e si gettò a terra nascondendo il viso tra i capelli sciolti per soffocare i suoi singhiozzi. «Ah, fata crudele!» gridò Ermanno vinto. «No, non avrai la nostra bambina». «È questa la parola che mi hai dato?» disse Zilla, che l'aveva seguito di nascosto e che osservava stupita la sua disperazione e quella della donna. «Guardati allora dalla mia ira e temi il mio abbandono». «Io non temo niente da parte tua», rispose Ermanno. «Non sei tu la saggezza e la forza, dunque la dolcezza? Temo invece da parte mia di essere ingrato e spergiuro. Ti ho promesso mia figlia, prendila». Berta perse i sensi e la fata, prendendo la bambina come un'aquila ghermisce un passerotto, la portò via nella notte con un grido di gioia e di trionfo. Né le lacrime né le carezze della madre avevano turbato il sonno profondo e fiducioso della piccolina. Ma quando si sentì sul cuore strano e misterioso della fata, cominciò a sognare, ad agitarsi, a gemere, e quando la fata si fu inoltrata nella foresta, la bimba si svegliò, gelata dallo spavento, e lanciò grida acute che Zilla dovette soffocare con le sue carezze per impedire che giungessero all'orecchio di Ermanno e Berta. Ma più abbracciava la bambina, più questa smarrita si torceva con disperazione e gridava l'unica parola che sapeva dire per chiamare la madre. Zilla salì la montagna di corsa, sperando invano che la rapidità della marcia stordisse e facesse addormentare la piccola creatura, e quando arrivò alla cascata, la bimba, stanca di piangere e di gridare, sembrava morta. Zilla riuscì a rianimarla con una canzone che risvegliò gli usignoli e li rese gelosi, ma non riuscì a fermare i sospiri dolorosi che sembravano rompere il petto della bimba. Continuando a cantare, Zilla fantasticava sul mistero d'amore, nascosto nel petto di questo esserino che non sapeva né ragionare, né camminare, né parlare, e che invece sapeva già amare, rifiutare, volere e soffrire. Dunque, si diceva la fata, non riuscirò ad avere ragione di questa resistenza morale che non ha nemmeno coscienza di essere. Cambiò la melodia e con quella lingua senza parole che Orfeo a suo tempo cantò sulla lira alle tigri e alle pietre, credette di poter sottomettere l'anima della bambina all'ebbrezza dei sogni divini. Questo canto era così bello che i pini della montagna fremettero dalle radici alla cima, e le rocce ne ebbero dei palpiti sordi. Ma la bambina non si consolò e continuò a gemere. Zilla invocò l'influenza magica della luna, ma il pallido volto dell'astro spaventò la piccola e la fata dovette pregare la luna di non guardarla più. La cascata, infastidita dai pianti che sentiva e che prendeva come una sfida, si mise a ruggire stupidamente, ma le grida della bimba vinsero il fragore della cascata. Questa disperazione ostinata ebbe la meglio, a poco, sulla pazienza e sulla volontà di Zilla. Sembrava che ci fosse in queste lacrime di bimba qualcosa di più forte di tutti gli incantesimi e più deciso di tutte le voci della natura. Zilla immaginò che in fondo alla valle, attraverso gli alberi fitti e le acque profonde dei torrenti, Berta potesse sentire il pianto di sua figlia e accusare la fata di non amarla. Le montò la collera, un tremito convulso agitò il suo corpo. Si alzò allora in piedi sul ciglio dell'abisso. Visto che questo essere insensato rifiuta di amarmi, pensava, perché mi sono presa questo tormento, questo rimprovero vivente che riempie cielo e terra. Se è inevitabile che il desiderio di questo amore mi bruci o che mi spezzi il rammarico di non riuscire a ispirarlo, l'unico rimedio sarebbe quello di distruggere la causa del mio male. Non è forse una causa cieca? Questa creatura che si sveglia appena alla vita ha già un'anima? E se l'anima degli esseri umani non muore, la si danneggia forse, liberandola dal corpo? Tese le braccia sull'abisso e la bambina, messa in allarme della gravità del pericolo, dalla gioia infernale della cascata, gettò un grido così straziante che il cuore di ghiaccio della fata ne fu attraversato come da una spada. Se la strinse con impeto al petto e le diede un bacio così ardente e così umano che la bambina vi sentì la virtù materna, si calmò e si addormentò in un sorriso. Zilla, raggiante, la contemplava mollemente abbandonata sulle sue ginocchia alle prime luci dell'alba. La sua anima si trasformava come le nubi sparse sul fianco della montagna. La sua volontà ardente si scioglieva come la neve, il suo bisogno di dominare sbiadiva come il giorno al calar della notte. Una luce nuova, più pura di quella dell'alba, penetrava nel suo cervello, canti più suavi di quelli del vento le risuonavano negli orecchi. Pensava alla dolce Berta e si sentiva dolce a sua volta. Quando la bambina fu riposata, si chinò verso le sue piccole labbra rosee e ne ebbe un bacio. E ridiscese felice verso la casa di Ermanno e di Berta. Ecco vostra figlia, disse loro. Ho voluto mettere alla prova la vostra amicizia. Riprendete il vostro bene. Ne ho capito il valore ormai, perché ho capito che sua madre non l'ha avuta a prezzo troppo alto con la sofferenza del parto. Ho capito anche il tuo diritto, Ermanno. L'uomo che sottomette e sfrutta la terra obbedisce all'istinto paterno della previdenza. Alla fine della sua fatica c'è la morte, ma in compenso ha l'amore durante la vita. Offenderei la giustizia del cielo e della terra se pretendessi di possedere contemporaneamente l'amore e l'immortalità. Li lasciò subito, per non vedere la loro gioia, e si ritirò in solitudine piangendo per tutto il giorno. Sentì in lontananza l'eco del concilio tumultuoso delle compagne che continuavano ad agitarsi alla sommità del santuario, ma ciò le era indifferente. L'orgoglio della sua casta immortale non parlava più al suo cuore intenerito da sante debolezze. Si rendeva conto che non aveva mai amato le sue nobili sorelle e che il bacio di una bimba era stato per lei più dolce di tutte le glorie. La notte che subentrò a questo giorno, unico nella lunga vita di Zilla, scese livida in un cielo cupo e opaco. La luna si levò dietro il profilo delle rocce desolate e presto, offuscata dalle nuvole, lasciò cadere dei raggi freddi e sinistri sui fianchi verde cupo della vallata. Zilla vide, al bordo del lago tetro e senza trasparenza, dei fuochi sparsi e dei gruppi confusi. In una viva aureola bianca riconobbe la regina seduta in mezzo alle giovani fate, che sembravano renderle un estremo omaggio perché a poco si allontanavano e la lasciavano sola. Andavano a raggiungere altri gruppetti indefiniti che ora si ingrossavano e accendevano le tenebre, ora invece si assottigliavano e si confondevano con schiere più nutrite di fate in cammino. Danze insolite guizzarono come fiamme sul bordo del lago. Brillarono delle scintille tra i giunchi, ma tutto accadeva in silenzio. Nessun canto terribile o sublime accompagnava queste misteriose evoluzioni, e grande fu la meraviglia di Zilla nel rendersi conto che assisteva a riti a lei sconosciuti. Si ricordò che se là c'era qualcuno chiamava, era la regina, sempre così dolce e grave. Volle allora sapere quali erano stati i suoi ordini e la cercò sulla riva del lago, ma tutta la luce era sparita. E Zilla lanciò il richiamo magico che l'annunciava alle sue sorelle. Questo grido, al quale di solito mille voci rispondevano, si perdette nel silenzio e Zilla, comprendendo che un avvenimento eccezionale aveva di certo sovvertito tutte le leggi del Sabba, fu presa dallo spavento e dalla tristezza. Gridò di nuovo con una voce mal sicura, ma non riuscì a pronunciare le parole consacrate dal rito. La sua memoria le aveva perdute. In questo momento vide che la regina le stava al fianco. Tutto è compiuto, Zilla. Non sono più la regina. Il mio popolo è disperso e mi abbandona. Guarda. La luna che si liberava allora delle dense nuvole che l'avevano coperta permise a Zilla di vedere lunghi cortei in movimento che si inerpicavano sulle cime sperdute nella nebbia e svanivano a loro volta come sogni. Verso il nord si dirigeva la sfilata delle fate anziane, lenta come una processione di formiche nere incollate alla terra, così compatta e regolare che quasi non se ne percepiva il movimento. Fuggivano la vicinanza dell'essere umano, loro nemico, e andavano a cercare fra i ghiacci polari il deserto sconfinato e la solitudine senza ritorno. Verso il sud correvano impazienti le fate giovani, sparse e in disordine, non badando ad evitare alcun ostacolo, affrettandosi come se dovessero scalare il cielo. Volevano conquistare un'isola deserta, nelle regioni dove il sole è cocente, e popolarla di bambini rubati in tutte le parti del mondo. Verso Oriente e verso Occidente, altri gruppi, diversi per età e per temperamento, avevano l'intenzione di mescolarsi alla razza umana, per insegnarle la scienza occulta, correggerla dei suoi errori, castigarla dei suoi vizi e ricompensarla dei suoi progressi. Come vedi, disse la regina, tutte se ne vanno alla ricerca di un sogno. Divorate dalla noia, cercano di resuscitare la potenza e l'energia che vengono loro meno. Le vecchie credono di fuggire all'uomo per sempre, ma si sbagliano. L'uomo le raggiungerà ovunque, le caccerà dai loro regni, fin nei luoghi più deserti, dove muore il sole. Le giovani si illudono di formare una nuova razza mischiando tutte le razze, e di cambiare su una terra ancora vergine gli istinti e le leggi dell'umanità. Non ci riusciranno mai. L'essere umano non sarà governato e migliorato che da un altro essere umano. Anche queste altre che, prendendolo così com'è, si vantano di cambiare la società che ha creato e in cui si agita, non si nutrono che di un'ambizione folle. L'essere umano civilizzato non crede che a se stesso. E le potenze occulte non hanno autorità che sugli idioti. Io ho detto loro queste verità, Zilla. Ho inteso dimostrare loro che divenute immortali noi siamo diventate sterili per il bene e che nel breve periodo della nostra vita umana, prima di bere la coppa, siamo state più utili che nei 1.000 anni vissuti facendo resistenza alla legge comune. E se non mi hanno voluto credere, pretendono di potere e dovere condividere con l'uomo e con la donna il dominio della terra, di conservare, malgrado quello, i santuari inviolabili della natura e di proteggere le specie animali che l'essere umano ha giurato di distruggere. Mi accusano di avere ostacolato il loro slancio, di averle obbligate a rispettare le intrusioni della razza umana, a fuggire sempre davanti a essa, a cederle i luoghi deserti più belli. Come se non fosse diritto di coloro che si riproducono di cacciare davanti a sé gli esseri neutri e infecondi. Invano ho detto loro che non avendo né bisogni né occupazioni produttive né possibilità di aumentare di numero, potevano accontentarsi di uno spazio ristretto. Hanno gridato che tradivo l'onore e la fierezza della loro razza. Mi hanno infine domandato sulla base di quale diritto le governavo, perché avendo loro donato la coppa di una vita immortale, non sapevo dar loro la possibilità di sfruttare questo potere, e ho dovuto riconoscere che mi ero sbagliata nel fare questo dono magnifico di cui da tempo avevo riconosciuto il vuoto e detestato la miseria. Allora le ha prese una vertigine, tutte. Tutte mi hanno lasciata, le une con orrore, le altre con sofferenza, tutte con la paura della verità e il desiderio violento di sottrarsi a essa. Ed ora, Zilla, eccoci qui, noi due sole. Io voglio restare, io, per fare la prova di una scoperta alla quale lavoro da 1000 anni. Non vuoi unirti alle tue sorelle che se ne vanno? Oppure speri di vivere serena in questa solitudine, vegliando sulla famiglia di Ermanno? Io voglio restare con te, rispose Zilla. Tu sola hai capito la lenta e terribile agonia della mia falsa felicità. Se non puoi consolarmi di ciò, almeno io non ti offenderò dicendoti che soffro. Pensa a ciò che dici, mia cara Zilla. Se niente ti può consolare, meglio cercare il rumore e l'illusione con le tue compagne. Io non starò forse qui per molto. E forse presto non mi vedrai più. Zilla si ricordò che la regina le aveva parlato di un rimedio supremo contro il tedio, di cui pensava di fare uso e di cui non le aveva voluto rivelare il terribile segreto. La supplicò a lungo prima di ottenere di essere iniziata a questo mistero. Infine, la regina cedette e le disse: Seguimi. Per 1000 terribili sentieri tortuosi che ella sola conosceva, la regina condusse Zilla nel cuore del ghiacciaio e, penetrando con lei in una cavità splendente di un blu cupo, mostrando su un blocco di ghiaccio in forma di altare una coppa di onice dove macerava un filtro sconosciuto, le disse: A forza di cercare il mezzo di distruggere l'effetto funesto della coppa della vita, credo di avere infine trovato la divina e benefica coppa della morte. Voglio morire, Zilla, perché io sono stanca e disperata più di te. Ho sofferto in silenzio e ho assaporato goccia a goccia, secolo dopo secolo, il fiele dei rimpianti vani e delle illusioni perdute, ma ciò che mi ha infine spezzata è il pensiero che dobbiamo finire con questo mondo come castigo per la nostra resistenza alle leggi che esso subisce. Noi abbiamo cercato il nostro paradiso sulla terra. Non solo gli altri abitanti della terra si sono allontanati da noi, ma la terra stessa ci ha detto: Voi non mi possedete, siete voi che appartenete a me per sempre, e il mio sarà anche il vostro ultimo giorno. Zilla, ho visto il nulla spalancarsi davanti a me, e l'abisso di secoli che ci separano da esso mi è sembrato come un solo istante nell'eternità. Allora ho avuto paura della morte fatale e ho domandato appassionatamente alla signora della vita di ricondurmi sotto la legge benefica della morte naturale. Non ti capisco, rispose Zilla, terrea per lo spavento. Ci sono due morti? Tu vuoi dunque morire come muoiono gli esseri umani? Sì, lo voglio, Zilla. Cerco questa morte, la voglio provare e spero che infine le mie lacrime abbiano piegato colei che noi abbiamo sfidato. La signora della vita ha perdonato la tua ribellione? Ti ha promesso che la tua anima sopravvivrà alla tua morte? La signora della vita non mi ha promesso proprio nulla. Mi ha solo fatto leggere queste parole nei geroglifici del cielo stellato: La morte è la speranza. Ebbene, attendiamo dunque la morte del pianeta. Non deve anch'esso cullarsi nella stessa promessa? Il pianeta, sì, perché ho obbedito ai suoi fati, ma noi, che li abbiamo trovati troppo spaventosi e che ce ne siamo liberate, noi non abbiamo diritto al rinnovamento universale. E ora, addio, mia cara Zilla. È qui che io voglio restare per prepararmi all'espiazione. Torna alle brezze della luce, e se non puoi dimenticare la tua pena, ritornerai qui a condividere la mia sorte. Io spero, disse Zilla, che il tuo potere sia inefficace, ma giurami che non farai questa esperienza orribile senza chiamarmi dietro di te. La regina giurò e Zilla lasciò il ghiacciaio con impazienza. Aveva voglia di rivedere il sole, le acque libere, le nubi erranti, i fiori sbocciati. Amava ancora la natura e la trovava bella. corse alla casa di Armanno, ripromettendosi di abituarsi alla vista della sua felicità. Lo trovò affranto. Berta era malata. Il dispiacere che le aveva procurato portandole via sua figlia aveva acceso la febbre nel suo sangue. Delirava e continuava a chiedere, gridando alla piccola che teneva tra le braccia senza riconoscerla. Zilla corse a cercare delle erbe benefiche e guarì la giovane donna. Tornò la gioia nella casa di legno, ma Zilla restò triste e malinconica. Per causa sua vi era entrato il dolore. Credette che anche Bonus ne avesse risentito. Non parlava quasi più e non riusciva più a camminare. «Non è ammalato», le disse Ermanno. «Non ha avuto dispiaceri e non ha capito il nostro. Non ha altro male che la vecchiaia. Non è sveglio e non dorme più. Le sue ore sono immerse in un sogno continuo. Non soffre. Sorride sempre. Noi crediamo che stia per morire e abbiamo tentato di tutto per prolungare la sua vita. Desiderate dunque che non muoia?» disse la fata. «Oh, noi non desideriamo l'impossibile», rispose Ermanno. «Rimpiangeremo questo vecchio compagno e prolungheremo quanto sarà possibile il tempo che gli resta da passare con noi. Ma siamo sottomessi alle leggi che ci impone la signora della vita.» Zilla si avvicinò al vecchio e gli domandò se voleva che cercasse di restituirgli le forze. Bonus si animò in un sorriso e la ringraziò con i modi di un bambino. «Avete già fatto abbastanza per me. Mi avete salvato dal supplizio. Dopo, grazie a voi, ho vissuto lunghi giorni sereni e non sarebbe giusto volerne di più.» Quando la fata tornò a vederlo, soffriva un po' e si lamentava debolmente. «Faccio fatica a morire», le disse. «Tu puoi accelerare la fine», gli rispose la fata. «Perché aspettarla, visto che è inevitabile?» Bonus sorrise ancora. «La vita è un bene fino all'ultimo respiro, signora fata, e la ragione, in pieno accordo con la dea, trattiene dall'accorciarla anche di un solo istante. E dopo, che cosa credi di trovare dall'altra parte di questa vita?» «Oh, lo saprò presto», disse il moribondo, «ma fino a quando l'ignoro non me ne do pena.» Zilla lo vide morire ben presto. Fu come una lampada che si spegne. Ermanno e Berta portarono i loro bambini per dare un bacio alla sua fronte d'avorio. «Che cosa fate?» disse la fata. «Rispettiamo la morte», rispose Berta, «e benediciamo l'anima che se ne va.» «E dove va?» domandò ancora la fata, piena di inquietudine. «La dea lo sa», rispose la donna. «Ma voi non temete nulla per l'anima del vostro amico?» «Mi hanno insegnato a sperare.» «E tu, Ermanno?» «Voi non mi avete insegnato nulla in proposito», rispose, «ma Berta spera e io sono tranquillo.» Zilla capì la dolcezza di questa morte naturale dopo il compimento della vita naturale. Ma la morte violenta, la morte imprevista, la morte acerba di chi è ancora giovane e forte, ne era profondamente turbata e sentì il bisogno di consultare la regina. Tuttavia, la regina non ricompariva e Zilla non osava tornare da lei. Una notte il suo fantasma venne a chiamarla. Ella lo seguì e trovò la sua grande amica serena e sorridente in fondo al suo palazzo di zaffiro. «Zilla», le disse, «l'ora è giunta, occorre che tu mi assista. Ma prima voglio rivelarti molti segreti che ho scoperto per guarire le malattie, far rimarginare le ferite o almeno diminuire le sofferenze. Li rivelerai a tua volta a Ermanno, perché quanto è possibile tenga lontano da sé e dai suoi cari la morte prematura e la sofferenza inutile. Digli di cercare di superarci in questa scienza, perché l'essere umano deve aiutarsi da solo a lottare continuamente. I suoi mali sono il castigo per la sua mancanza di saggezza e il risultato della sua ignoranza. Con la saggezza distruggerà l'omicidio, con la scienza terrà lontana la malattia. Addio, sorella mia. Morire non è nulla per chi ha ben vissuto. Quanto a me, Io ignoro il supplizio cui mi abbandono, perché ho commesso un crimine grave. Ma io non devo avere paura di espiarlo e di rifare conoscenza col dolore. Stai dunque per morire? Gridò Zilla, cercando di rovesciare la coppa fatale. Lo ignoro, rispose la regina, trattenendola con mano ferma. Io so che con questa bevanda distruggo la virtù maledetta della coppa della vita. Ma io non so se diventerò semplicemente mortale o se subito morirò. Forse riprenderò la mia esistenza nel punto in cui era, quando l'ho resa immobile nel tempo. Allora avrò dei giorni di felicità sulla terra, ma io non li ho meritati e non li domando. Non culliamoci in vane speranze, Zilla. Osserva che cosa sto per diventare e se resterò come fulminata, lascia qui le mie spoglie. Questo è già un sepolcro. Se invece lotterò nell'orrore dell'agonia, ripetimi le parole che ho letto nella volta del cielo. La morte è la speranza. La morte è la speranza. Aspetta! Gridò Zilla. E se volessi morire anch'io? La regina le rivelò una formula magica, dicendole: potrai tu stessa preparare questa pozione. Io non voglio che tu la beva senza aver avuto il tempo di riflettere. Dammi la benedizione dell'amicizia. La mia anima è pronta. Zilla si gettò ai piedi della regina e la supplicò di aspettare ancora, ma la regina, temendo di piegarsi di fronte alle sue lacrime, la pregò di andare a cercare una rosa perché potesse contemplare ancora un'immagine pura di bellezza sulla terra, prima di lasciarla forse per sempre. Quando Zilla ritornò, la regina era seduta vicino al blocco di ghiaccio, con la testa appoggiata mollemente su un braccio. L'altro braccio pendeva abbandonato, la coppa vuota era caduta sull'orlo della tunica. Zilla credette che dormisse, ma questo sonno era la morte. Zilla aveva ben visto morire degli esseri umani e non si era affatto commossa perché non aveva voluto amarne nessuno. Vedendo che l'immortale aveva cessato di vivere, fu presa dal terrore. Tuttavia, sperò ancora che questa morte non fosse che un sonno letargico e trascorse 3 giorni accanto a lei, aspettando il suo risveglio. Ma il risveglio non venne e Zilla vide questa figura calma e maestosa irrigidirsi lentamente. Fuggì disperata. Ritornò più volte. Il ghiaccio conservava questo bel corpo e non consentiva alla corruzione di appropriarsene, ma sempre più pietrificava l'espressione di oblio nei lineamenti e cambiava in statua questa meraviglia della vita. Zilla, guardandola, si domandava se fosse mai vissuta. Non era più la sua amica e la sua regina, era un'immagine indifferente al suo lutto. A poco, la giovane fata si abituò all'idea di diventare così e decise di seguire il destino della sua amica, ma quando ebbe finito di preparare il filtro di morte, lo depose sul blocco di ghiaccio e fuggì con orrore. Da quando si sapeva libera di morire, sentiva il fascino della vita e non si annoiava più. La primavera, che era appena arrivata, sembrava la prima di cui apprezzasse a fondo l'incomparabile sorriso. Mai gli alberi avevano avuto tanta eleganza. Mai i prati fioriti avevano esalato profumi così soavi. Spiava nell'erba il risveglio degli insetti intorpiditi dall'inverno e quando sorprendeva la farfalla che usciva dalla sua crisalide, tremava, chiedendosi se fosse quello l'emblema dell'anima che sfugge ai lacci della morte. Si sentiva chiamata dalla regina nel regno delle ombre. La vedeva in sogno e l'interrogava, ma il fantasma passava via senza risponderle, mostrandole le stelle. Cercava di leggervi la promessa che aveva dato coraggio alla sua amica. La paura dell'annientamento le impediva di afferrarne il senso misterioso. Vedeva Berta tutti i giorni e più teneramente che mai si attaccava a sua figlia. Gli altri bambini di Ermanno le sembravano buoni e belli, ma la piccolina che preferiva assorbiva tutte le sue cure. La bimba era delicata, più intelligente della sua età, e quando la fata la teneva sulle ginocchia, cominciava a parlare e a dire delle cose che sembravano venirle da un'altra vita. Non guardava né gli agnellini bianchi, né i fiori appena spuntati, tendeva continuamente le piccole braccia verso le nuvole. E un giorno gridò la parola cielo che nessuno le aveva mai insegnato. Un giorno la bambina si fece improvvisamente pallida, lasciò cadere la testina bionda sulla spalla di Zilla e le disse: «Vieni». La fata credette che le domandasse di portarla a passeggiare, ma Berta lanciò un grido tremendo. La bambina era morta. Zilla cercò invano di rianimarla. Tutti i segreti che conosceva persero istantaneamente la loro virtù. L'anima era partita. «Ah, fata malvagia!» gridò Berta nel delirio del suo dolore. «Sapevo bene che la mia bambina sarebbe morta. Da quando ha trascorso una notte con te sulla montagna, ha perso la sua freschezza e la sua allegria. È il tuo funesto amore che l'ha uccisa!» Zilla non rispondeva nulla. Berta forse aveva torto, ma la fata capiva bene che questa madre addolorata non l'avrebbe amata mai più. Ermanno, sperduto, cercava invano di lenire le loro ferite. Zilla lasciò la casa di legno e corse al ghiacciaio, osò dare un bacio al cadavere impassibile della regina e beve la coppa. Ma invece di restarne folgorata, si sentì come rinnovata da una sensazione di fiducia e di gioia e credette di sentire una voce di bimba che le diceva: «Vieni dunque!» Ritornò alla casa di legno. La piccola era coricata in un fascio di fiori. La madre pregava vicino a lei, circondata dai suoi altri bei bambini che si sforzavano di consolarla e che lei guardava con dolcezza, come per dire loro: «State tranquilli, non vi amerò di meno!» Il padre scavava una piccola fossa sotto un cespuglio di biancospino e versava grosse lacrime, ma preparava con amore e sollecitudine l'ultima culla della sua bimba. Vedendo la fata, le disse: «Perdona, Berta». Zilla si inginocchiò di fronte alla madre. «Sei tu che mi devi perdonare», le disse, «perché io sto per seguire la tua bambina nella morte. Mi ha chiamata ed è sicuro che sta andando verso una nuova vita, in un mondo migliore, e che le occorre un'altra madre. Qui non ho saputo farle che del male, ma bisogna che io sia destinata a farle del bene altrove, visto che mi reclama». «Io non so che cosa tu vuoi dire», rispose la madre. «Hai preso la vita di mia figlia, vuoi dunque portarmi via anche la sua anima?» «L'anima della nostra bambina appartiene solo alla dea», disse Ermanno. «Ma se Zilla conosce i suoi misteriosi disegni, lasciamola fare». «Mettete la bambina fra le mie braccia», disse la fata. E quando ebbe questo piccolo corpo sul cuore, intese ancora il suo spirito che le diceva sommessamente: «Andiamo, vieni». «Sì, partiamo!» gridò la fata. E chinandosi verso di lei, sentì la propria anima spirare e mischiarsi dolcemente in un bacio materno all'anima pura della bambina. Ermanno fece la tomba più grande e ve le depose entrambe. Durante la notte, una mano invisibile vi scrisse queste parole: «La morte è la speranza». Fine.